Volevo solo dirvi che il calcio è completamente spianato, finito, distrutto. Chiudete tutte le trasmissioni, cambiate lavoro, perché ormai è tutto finito. Addio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno, visto quello che è successo questo fine settimana nelle città e anche nei paesi, con affollamenti, movide e roba del genere, è assurdo non far ripartire il campionato di calcio. Avete ragione, motivi economici, ci mancherebbe altro, ma diventa come la PlayStation o roba del genere, diventa un videogioco, non è più il calcio che ci interessa, va bene, per i soldi bisogna giocare, ma non dimentichiamo che c'è la passione, noi siamo legati non dai soldi ma dalla passione per il calcio, signori. Poverini, soffrono il caldo, bisogna farli giocare a mezzanotte. E noi che lavoriamo in campagna tutto il giorno, il caldo dobbiamo prenderlo comunque, no? Molti giocatori delle squadre più blasonate hanno il Covid, quindi simulano qualche infortunio per non avere poi magagne legali. Ciao ciao! E prima deve cominciare il campionato, perché l'indotto che c'è intorno ai miliardi, milioni e via di seguito. Poi adesso ve ne uscite con gli infortuni ai calciatori, poi ve ne uscite con un'altra cosa. Ma scusate, ma andate voi lì al governo, alla federazione, al posto di parlare bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Sempre molto divertente sentire i WhatsApp dei nostri ascoltatori, 349-238-6666, mandate più che potete, e certe volte mi viene in mente il mitico Massimo Troisi quando incontrava Savonarola, Spasso per il tempo, ricordati che devi morire, ma me lo segno. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Allora, Valeria Bernardo in regia con Gianmarco Ferronato, Claudio Schettone in redazione, facciamo insieme gli auguri ad Anita Panizza, che oggi lavora in assistenza con noi. Certo, la Panizza. In piemontese glieli facciamo. In piemontese. Scusa, agli altri per la pessima imitazione. detto da te in piemontese da Roma. Radio Tweet. Ma Radio Tweet è per una vicenda di qualche giorno fa che non ha avuto forse il risalto che doveva avere, una vicenda terribile che riguarda Joseph Perfection, insomma era stato preso da Sabatini, era una storia bellissima che sembrava a lieto fine, anche grazie al lavoro dei ragazzi di Liberi Nantes, che è una squadra che gioca nel campo di Pasolini del 25 aprile a Pietralata a Roma, e che si occupa dell'integrazione in maniera mirabile da tantissimi anni, e lui aveva cominciato lì, poi Sabatini l'aveva portato alla Roma, c'era stato il Vicenza, insomma l'altra notte purtroppo se n'è andato, ed è una storia terribile, tristissima, è un destino tremendo sul quale proprio non ci sono aggettivi, ma insomma prima di quella di questa notizia terribile era stata una storia bellissima di integrazione e di coraggio, quindi bravo Pierluigi, grazie. Gianni De Biasi, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Luigi, buongiorno a tutti voi. Ciao, senti, ti chiedo subito un'impressione tecnica sulla Bundesliga, perché è il nostro unico parametro di riferimento. Beh, ieri sera abbiamo visto Kimmich del Bayern fare il Messi per un secondo e segnare un gol pazzesco nella partitissima, ma al di là di questo, Gianni, che impressione tecnica hai guardando queste partite? Beh, ovviamente manca il pubblico e quindi manca tutta la parte emotiva, però dal punto di vista calcistico credo che sia una buona un esempio importante di come si possa fare il calcio nonostante la difficoltà legata al coronavirus, a tutti i problemi annessi e connessi. Credo che se c'è un minimo di organizzazione c'è la possibilità di risolvere tutto e di portare avanti una manifestazione leggi Serie A che può arrivare alla fine della stagione. Sì, comunque è un'impressione positiva calcisticamente parlando, almeno a me sta piacendo, non so se era la lunghissima astinenza. No, tecnicamente Carlo, tecnicamente è chiaro, sai, l'impatto per chi è non dentro al mestiere è normale che ti manca l'effetto del pubblico, e i rumori di fondo, tutti questi aspetti qua che tolgono la parte emotiva della partita, però dal punto di vista, per uno che fa il mio mestiere, vede le giocate né più né meno, le vede con grande serenità, sento ogni tanto anche qualche commento rubato e non è male, insomma. Sì, quello dei... Secondo me è un calcio freddo, no? La mancanza del pubblico lo rende sicuramente meno accattivante e insomma non vedo l'ora che il pubblico torni, lo ripetiamo ogni giorno perché questo è il punto di partenza di qualsiasi ragionamento. Detto questo, poi la partita secondo me paradossalmente vive anche delle situazioni diverse rispetto a prima, meno proteste, ovviamente meno influenza da parte del pubblico sull'arbitro, sui giocatori, sull'aggressività in campo, poi c'è anche questo tema ovviamente del rimanere nei limiti del possibile lontani anche dalle proteste e... Viene fuori una partita, diciamo, più lineare, più appunto da addetti ai lavori, chiaramente più legata ad aspetti tecnici e tattici e meno ad aspetti caratteriali ed emotivi. È ovvio che è una situazione di emergenza che mi auguro finirà prima possibile. Adesso comincio a sentire qualche virologo, diciamo, di quelli ottimisti che sogna un parziale ritorno degli spettatori prima di quello che potevamo immaginare. È una fase, non è una fase bella, però sicuramente dal punto di vista del... Il gioco è quello, la partita è quella, il pallone è quello, sono 11 contro 11, no, i tifosi non sono allo stadio e questo è un peccato enorme, ma i tifosi sono a casa, cioè non è che ieri in Germania i tifosi del Bayern la partita non l'hanno vista, o quelli del Dortmund la partita non l'hanno vista, l'hanno vista ovviamente in un'atmosfera che non può piacerci, che però... È un male temporaneo. Chiaro. No, ma perché dopo le prime partite c'era qualcuno che diceva: ah, avete visto, non ci sono dribbling, non ci sono contrasti, i giocatori hanno paura. Io non ho avuto questa, tutto sommato, questa sensazione, vi dico la verità, ma dal punto di vista così visivo, poi non sono un tecnico come Gianni De Biasi, naturalmente. Quanto a noi, Gianni, c'è la preparazione, c'è il tema degli infortuni, c'è il poco tempo che qualcuno dice c'è a disposizione, sarà come giocare un mondiale, un europeo che tu hai fatto da commissario tecnico di 2 mesi e con 12 partite. Carlo, io credo che se noi ci togliamo un po' dalle varie situazioni mentali che ci creiamo noi ad hoc, possiamo fare tutto. Credo che non sia un problema giocare 12 partite in uno spazio ridotto di tempo. Le squadre di elite giocano ogni 3 giorni normalmente, quelle che sono impegnate con la Champions League nei vari campionati interni. Io credo che da questo punto di vista qui c'è molto del buttato lì un tanto al chilo. Io credo che tutto sommato i calciatori che sono atleti, che fanno quel mestiere lì, è vero che sono stati inattivi per 2 mesi, ma non sono stati a riempirsi la pancia e hanno fatto allenamento, hanno mangiato in maniera normale. È chiaro che gli manca la pressione della domenica, però io credo che tutto sommato non sia questo il problema di fondo. Il problema di fondo è legato alle situazioni vissute da giocatori che hanno visto da vicino la morte, e mi riferisco a Bergamo, a Brescia, realtà che sono state toccate in maniera pesante dal coronavirus, e credo che questo sia un po' l'aspetto da cercare di limare. Però siccome il calcio è il gioco che per molti è diventato il mestiere, credo che nessuno possa fregiarsi del fatto di aver fatto il mestiere che da piccolo era il loro gioco. Capisci che è la cosa più straordinaria al mondo. Io credo che ci facciamo troppe mentali, non dico quello che ci va davanti a mentali, per niente. Secondo me c'è voglia di riprendere, c'è la consapevolezza che bisogna stare attenti a un sacco di cose. Una volta che tu hai fatto i test del sangue a livello di tampone e che tutti quelli che fanno parte di quel club lì sono a posto, compresi i magazzinieri, massaggiatori e quant'altro, non ci sono rischi particolari all'interno del club. Se tutti fanno la stessa cosa e viaggiando non hai problemi di incontrare infetti, capisci che le cose possono andare nella maniera, certo, dove tutti ci auguriamo possiamo andare. Ma guarda Gianni, dal mio punto di vista lettura esemplare, compreso l'aspetto sulle seghe mentali, Pier. Anche dal mio, come tutte le situazioni della vita è legata a questa pandemia, è tutto molto veloce, ma questo lo diciamo da metà marzo, è cambiato tutto molto velocemente quando c'è stato da chiudere. Adesso, con tutta la dovuta prudenza, la vita ogni giorno, facendo tutti gli scongiuri in tutti i settori, ci torna a dare un pezzetto, no? E quindi io sono stato al ristorante l'altra sera per la prima volta dopo tempo, ieri sera sono stato a cena a casa di amici per la prima volta dopo tempo. È chiaro che che le precauzioni ci sono, e oltre alle precauzioni c'è anche l'aspetto psicologico, cioè è ovvio che siamo tutti diversi, è ovvio che questa pandemia ci ha cambiato e forse ci cambierà ancora, però a questa pandemia si può rispondere soltanto con la vita. Poi lo dico sempre, se il comitato scientifico e la politica decidono che non ci sono gli elementi di sicurezza, non giochiamo, però voglio dire, in ogni caso la vita va avanti. Però guarda, anche bisogna muoversi in quella direzione lì. Sarebbe antistorico non ricominciare. No, i panettieri fanno il pane, i venditori, sì, di hamburger fanno gli hamburger, i venditori di jeans vendono i jeans, quelli delle macchine vendono le macchine, i calciatori giocano a pallone. Sì, sì. Ognuno fa il suo mestiere, chiaro Pierluigi, ricomincia come con... Se è possibile, con le proporzioni, eccetera, eccetera, però è normale ricominciare a fare il proprio mestiere. Da questo punto di vista, sposo la lettura dell'altro giorno del mio amico Michele Dalai, che diceva: bello vedere il campionato tedesco perché ti dà la sensazione di qualcosa che sta succedendo in quel momento lì, ed è qualcosa di bello, di gioioso. Ma al di là di questo, sulla ripresa della preparazione, Gianni, incertezza totale, io credo, dal punto di vista agonistico. Si parte tutti da zero con gli handicap della storia precedente del campionato, ma sarà un torneo nuovo, no? Ma guarda, io credo, Carlo, che si parte tutti dalla stessa condizione, quindi non è che ci sia uno che è privilegiato rispetto a un altro. Io credo che tutto sommato questo stop di 60-70 giorni, quello che è, adesso non sto a quantificarlo, però tutto sommato parliamo di ragazzi sani, tra virgolette, quelli che hanno avuto problemi col virus, chiaramente, sì, altri sono stati toccati, che possono aver avuto una vita... magari ridotta da un certo punto di vista per quanto riguarda le libertà singole, ma però sì, ognuno in casa propria poteva tenersi in condizione nella maniera più disparata possibile. Sì, sì, sì. Parliamo di prestazioni di alta intensità. Io credo che nel giro di 3 settimane ci si possa ricondizionare tranquillamente, non ci sia problemi per ricominciare il campionato. Poi chi ha delle rose larghe ha la possibilità di fare il turnover, e quindi molto spesso si mettono davanti problemi dove non esistono. Io sono stato sempre abituato nella vita di, se c'è un problema, faccio finta che non esista e cerco di scavalcarlo, perché se mi affloscio alla prima difficoltà non vado da nessuna parte. Ma lo parlo per il calcio, ma parlo per tutte le altre realtà economiche dell'Italia, certo, perché oggi, certo, dobbiamo dare questo messaggio importante: stiamo attenti, stiamo distanti quando non c'è la possibilità di avere mascherine e quant'altro, ma al tempo stesso, parlo nella vita normale, ma al tempo stesso cerchiamo di guardare avanti con fiducia, senza farsi massacrare da questa realtà. Sì, sicuramente. Ci ha già massacrato abbastanza. Direi di sì. Vedi squadre che, sempre sul piano agonistico, sul piano del campionato, di quel che resta del campionato, che vedremo avvantaggiate sul piano tecnico, fisico. Carlo, io credo che quando abbiamo finito il campionato la Lazio era la squadra più in forma in quel momento lì, era una squadra che andava a mille. Adesso non so se quando riprenderà sarà la stessa squadra. La Juventus ha un punto di vantaggio sulla Lazio, l'Inter deve cercare di recuperare. Io credo che comunque partiamo bene o male, comunque parte il campionato, e mi auguro che parta, perché sarebbe un segnale per tutti, non solo per il calcio, anche per tutte le altre realtà economiche, nel quale anche l'Italia riesce a far fronte a delle emergenze reagendo meglio di tanti altri, come abbiamo dimostrato nella vita reale, e anche nel calcio possiamo prendere esempio da quello che stanno facendo adesso in Germania, che sono già la seconda giornate di campionato, che a breve ricomincerà la terza partita, giornate di campionato, e quindi a quel punto lì credo che non ci siano più grandissimi problemi da questo punto di vista. Ostacoli, sì, io mi aspetto qualcosa di profondamente diverso, molto curioso, Pierluigi. Ma allora, la Lazio e ci metterei anche l'Atalanta, sicuramente erano le due squadre più in forma che giocavano il calcio migliore prima della pausa. Quindi da un lato si potrebbe pensare che questo time out possa confonderle, no? Anche solo statisticamente potrebbe togliergli qualcosa. È anche vero che sono forse le due squadre più motivate in assoluto, nel senso che io credo che, e l'abbiamo visto in qualche modo anche dalle dichiarazioni e dal pressing di queste settimane di Lotito e degli altri, insomma, la Lazio abbia una grande voglia di giocare, giustamente, legittimamente, perché insomma non capita tutti gli anni di essere in corsa per vincere il campionato. Quindi faccio molto, e lo stesso discorso riguarda l'Atalanta, ovviamente poi Bergamo ha vissuto una situazione completamente diversa, c'è stato il silenzio giusto e doveroso in queste settimane da parte dei giocatori e dello staff dell'Atalanta, come ovvio che sia. Però poi credo che dal punto di vista agonistico sia importante per l'Atalanta, sia legittimo, sia umano che l'Atalanta abbia voglia di giocarsi le sue carte in Europa, perché anche lì un quarto di finale di Champions League non era mai capitato. Quindi io poi credo che la motivazione potrà essere molto importante. Poi c'è l'aspetto pubblico, che abbiamo visto in qualche modo anche legato alla Bundesliga, perché onestamente il fattore campo cambia tanto. Sì, e questo, attenzione, sì, attenzione, dobbiamo essere molto precisi in questo. È una conferma, ribadisce e sottolinea l'importanza dei tifosi. È proprio in questo momento che non li vediamo allo stadio che tutti si devono rendere conto dell'importanza del rapporto fiduciario e della straordinarietà dei tifosi e del pubblico, senza il quale il calcio avrebbe veramente poco significato. Beh, ma credo che... Allora lo vedi dal fattore campo, lo vedi ovviamente perché in questo momento, insomma, anche se magari comunque... Beh, nessuno ha dubbi su questo, Pier. Cioè, certo, rimangono le parole di, ad esempio, di Fabio Capello, che ha detto anche più di altri sport il calcio è uno sport che si nutre e viene nutrito dal pubblico dal punto di vista proprio fisico. Quindi approfittiamo di questo periodo triste da questo punto di vista, secondo me, per recuperare società, tifosi, tifoserie organizzate, tifoserie non organizzate, curve e tribune, un rapporto fiduciario di passione vera e autentica per questo gioco, perché questa cosa secondo me è molto importante. Secondo me da una parte e dall'altra sono stati commessi delle volte degli errori, no? E quindi insomma le società farebbero bene, secondo me, a fidelizzare in tutti i modi possibili, anche quelli più creativi, i propri tifosi. Sì, perché è una cosa che in questo momento, secondo me, è importante ribadire. Poi ci auguriamo che presto si possa tornare. E per i tifosi può essere invece un momento per far sentire in modo diverso la loro presenza, la loro vicinanza, anche non fisica. L'ultima cosa, Gianni, volevo chiederti: Champions, qui sì, sarà un torneo profondamente anomalo, perché a quanto pare dopo la riunione di ieri non c'è l'ufficialità, ma avremo tra il 7 e l'8 agosto il ritorno degli ottavi e poi quarti di finale in gara secca e Final Four a Istanbul. Questo ovviamente non si è mai visto. È chiaro, è una situazione particolarissima, però credo che bene o male tutti sono messi nelle stesse condizioni di giocare una partita magari secca come sarà. E non c'è altro modo in questo momento, perché sono proprio i termini dal punto di vista temporali, dal punto di vista proprio dell'organizzazione, di provare a fare le cose nel miglior modo possibile, cercando di arrecare meno danno possibile sia ai calciatori che alla gente che fruisce di questo spettacolo. Grazie Gianni, a presto. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Un abbraccio. Ciao Carlo. Ciao. Allora, adesso Pierluigi, facciamo un salto da un'altra parte, perché c'è una notizia di giornata da commentare. Saluto Roberto Ungaro. Ciao Roberto. Ciao Carlo. Non riguarda il calcio, ma riguarda comunque il mercato, che è quello dei piloti del moto mondiale, perché dopo la Ferrari anche la Ducati annuncia ufficialmente un cambio di pilota, non per la stagione che va a cominciare a metà luglio nel caso delle moto, ma per l'anno prossimo. Allora, Paolo Ciabatti, che abbiamo sentito qualche tempo fa questi microfoni, è intervenuto dicendo: sono giorni importanti di riflessione perché stiamo pensando all'assetto futuro. Sentiamolo. Al di là del fatto che ci sarà Quartararo al posto di Valentino Rossi sulla Yamaha ufficiale, in realtà non ci saranno degli sconvolgimenti particolari. Noi stiamo facendo delle valutazioni rispetto sia alla squadra ufficiale Ducati MotoGP che al team Pramac, che è il nostro team supportato ufficialmente per il prossimo anno. Avremmo voluto farle dopo 5-6 gare in modo da poter fare una valutazione più accurata e più oculata. Dovremo prendere alcune decisioni prima che il campionato inizi, e quindi sono valutazioni che stiamo facendo proprio in questi giorni. Grazie Paolo, grazie davvero, a prestissimo. La Ducati cambia pilota, Roberto, arriva Miller e se ne andrà probabilmente Petrucci. Beh, sicuramente Danilo se ne va. Arrivo meritato per Miller, perché è sempre stato davanti a Petrucci. Pilota australiano serve sempre, la tradizione vuole che ci sia, anche per il mercato, ricordiamoci di Bayliss. E tu guarda, tutto ruota attorno a Dovizioso, perché Dovizioso, come tutti gli altri piloti, è in scadenza, deve rinnovare. Lui vorrebbe rinnovare alla stessa cifra, ma Ducati ovviamente post pandemia si rifà tutto, no? Uh-huh. E quindi, allora, se, perché al fianco di Miller chi ci sarà? Dovi se rinnova, ma se non rinnova, attenzione, perché potrebbe arrivare Iannone. Iannone al 99% sarà Ducati, bisogna capire se sarà Ducati ufficiale o Pramac, con la quale ha sempre avuto ottimi rapporti. Ricordiamoci che si è portata dietro lo sponsor anche quando era ufficiale, sulla tuta aveva comunque Pramac. E quindi Dovi ha l'unica possibilità che ha Dovizioso di andare via da Ducati è KTM, ma KTM sta spendendo poco con piloti giovani, vuole rimanere su questa filosofia, quindi attenzione, il Dovi non ha più manubri. Potrebbe esserci anche un ritiro? Sarebbe clamoroso, però si vedrà. La posizione Vettel, più o meno. Esatto. Con le varie proporzioni. A Danilo gli hanno offerto la Superbike al fianco di Redding, dove potrebbe fare benissimo, perché in Superbike, come Danilo, è un vincente, ma lui sa di avere un'età e non ci vuole andare, perché se esce dalla MotoGP adesso non ci torna dentro mai più. E quindi per Danilo si mette male, purtroppo non ci sono manubri, anche se sono tutti in scadenza. Secondo me il problema di Ducati è che negli ultimi anni non ha mai avuto un top. Quando l'ha avuto Lorenzo con i suoi problemi, sappiamo tutti, conosciamo, però per vincere un mondiale ci vuole un top rider. Domanda in questo, vai. Domanda, considerazione che vale per, sia per Roberto che per Luigi Pardo, meglio rimanere nella massima lega possibile, in questo caso MotoGP, per insomma fare la seconda guida o per andare in un team non di primo livello, meglio rimanere nell'NBA come comprimario o andare a giocare nel campionato spagnolo o italiano per vincere, nel caso di Petrucci nella Superbike? Allora, io non ho dubbi, ma per tutti i piloti non hanno dubbi, a meno che vuoi ritirarti in un dolce ritiro, e capisci, però assolutamente vale il primo campionato, non c'è proprio non c'è confronto. Danilo non è poi così vecchio, è lì, capisci, è una transizione difficile per lui. Però io ti dico che chi è dentro il mondo racing ragiona solo in questo modo, quindi MotoGP tutta la vita, puoi vincere anche tutte le Superbike che vuoi, ma non sarai mai come uno forte in MotoGP. Questo pensa al mondo moto. Pier, cosa ne pensi invece? No, io non sono chiaramente un profano, ma anch'io avrei risposto la prima, non la seconda che hai detto, ma la prima, nel senso che mi sembra che il discorso è molto relativo, no? Nel senso che, per esempio, Gigi Datome ci spiegava la differenza che esiste fra il basket NBA e invece l'agonismo che c'è nel campionato turco, che ci può essere in Europa in alcune piazze particolari. Lì sono proprio emozioni di tipo diverso. Qui mi sembra che fra MotoGP e Superbike ci sia una differenza invece proprio di livello, di gerarchia. Quindi, sì, però dall'altra parte corri per vincere, sei il pilota di riferimento. Però insomma, dai, secondo me è una distanza troppo grande. Ci sono altre situazioni, altri esempi in cui sicuramente si può discutere. Insomma, una finale di Europa League vale più di un ottavo di finale di Champions, faccio per dirti, una volta che ci arrivi. Magari all'inizio non hai questa percezione, poi dopo ce l'hai quando ti viene dopo. No, io credo che nel caso delle moto non ci sia partita. Poi è ovvio che se il tuo destino è fare zero punti, essere sempre sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, forse alla lunga ti fai una domanda, però l'ambizione di provare a cambiare questo destino ce la devi avere, secondo me. E d'altra parte, dato che vogliamo un sacco di bene al Petrux, abbiamo capito da che parte stare, no? Se lui vuole rimanere nella MotoGP, faremo di tutto per tenercelo, vero Pardo? Certo. Gli vogliamo troppo bene. Noi dobbiamo sempre prendere quelle ciriole, esatto, difendiamo sempre gli amici. Roberto, un'ultima cosa invece, Valentino Petrona si farà? Secondo me sì, perché lui c'ha ancora troppa voglia, poi magari durerà pochissimo, perché bisogna vedere come ingrana, però c'è troppa voglia ancora, secondo me si fa. E quest'anno la vedi aperta, vedi aperto questo mondiale strano o invece chiuso nella solita direzione? Secondo me è ancora sempre nella solita direzione, l'unica novità sorpresa potrebbe essere quello che abbiamo visto nelle prove, cioè un Marquez che non era così a suo agio sulla moto, è l'unico punto di domanda. Poi è chiaro che i piloti stando fermi, sai, è un problema per i piloti star fermi, ma secondo me siamo sempre lì e non si va da nessuna parte, cioè è quel dominio lì che bisogna scalfire in qualche modo. A me dispiace, come dicevo prima, per Ducati, perché Ducati è una moto, è una squadra che meriterebbe il mondiale, però nelle scelte dei piloti ha sempre fatto cose, non dico sbagliate, ma in direzioni strane. Vabbè, vediamo se funziona, Crocodile Miller. Questo ovviamente capita nel 2021. Grazie Roberto, a prestissimo. A voi. Ciao. Pier, ci vediamo per la borsa, poi facciamo gli auguri non solo a Anita Panizza, ma anche alla Lega Basket che compie 50 anni. Anche a Gascoigne, Anche a Gascoigne. Anche a Gaza? Ah, credo proprio di sì. Ecco la vena di follia che accomuna Anita Panizza e Gascoigne. Non si assomigliano per niente, vi dico la verità. Borsa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Dunque oggi è un giorno importante, caro Pierluigi Pardo, per lo sport che più ci piace, più vicino al cuore ci sta. Sono 100 anni del basket italiano, ma soprattutto oggi, proprio oggi, 50 anni della Lega Basket. Quindi, facciamo gli auguri al presidente, Umberto Gandini. Ciao presidente, auguri. Ciao Umberto. Ciao, grazie a tutti. Spento grazie, le candeline. Buongiorno. Una splendida cinquantenne. È una splendida cinquantenne, assolutamente. Sì. No, abbiamo tagliato la torta, le candeline non me le ha messe. Le candeline neanche, neanche il 5-0, però c'era scritto sulla torta 50, quindi andava bene. Emozionante? Per te che ne ha vissute tante anche in molti altri sport, in molti altri angoli del mondo? Sì, emozionante sì, perché dà un senso a qual è l'importanza di questa Lega e del basket in Italia, e le persone che mi hanno preceduto come presidenti e tutti quelli che sono passati nella storia della pallacanestro italiana, ma che è diventata per lungo tempo storia della pallacanestro mondiale, sono impressionanti. E abbiamo un testimone oculare. A proposito, lasciatemi regolare pubblicamente dei conti. Marino Bartoletti, buongiorno. Buongiorno. Lusinghiero è commosso per questa convocazione. No, pensavi di farla franca, No, anche perché ieri non ti sei presentato al consueto appuntamento col Bar Tour e un tuo amico mi ha detto di dirti che sei un patacca. Può essere, però capirei che è stata tutta una muina per poter essere convocato oggi e parlare di pallacanestro. Senti, ciao Marino. Ciao. Marino può dire io c'ero, no, alla nascita della Lega Basket. Ci sono le testimonianze che sul sito della Lega dove ha scritto uno splendido articolo in cui intreccia la sua vita, o meglio, la sua vita si intreccia con questa palla spicchi. Sì, è vero, la mia vita si intreccia veramente con questa palla spicchi, perché se sono diventato giornalista, degnamente o indegnamente, è perché, intanto perché da adolescente andai a vedere quello che c'era di pallacanestro dalle mie parti, cioè a Forlì. Dovemmo sopportare anche un abbinamento con un'azienda che si chiamava Becchi, per cui noi andavamo in giro per l'Italia e ci urlavano Becchi, quindi non fu piacevole, però furono bei momenti. Dopodiché poi presi una penna in mano, cominciai a pasticciare, a scrivere di donna, di uomo e di altre cose, a sognare un giorno di poter vedere un grande palazzetto. E vi assicuro che quando per la prima volta andai, non dico al palazzetto di Bologna, ma addirittura al Palalito di Milano per vedere Becchi, all'Onestà, mi misi pure a piangere, tanta era l'emozione. E mai avrei pensato che quello che è stato il mio secondo padre, cioè Aldo Giordani, che oggi dovremmo ricordare a nastro, perché se la pallacanestro è diventata quello che è diventato in Italia, lo dobbiamo soprattutto a lui e alla sua forza mediatica. Mi disse: che cosa stai a fare a Forlì? È inutile che fai i giornalini che si chiamano pressing, nome che fra l'altro poi mi è servito successivamente. Ti è servito qualcosa, sì, sì. Vieni a Milano e vedi un po' cosa puoi combinare. Per questo saluto con un affetto infinito Umberto, perché intanto ci legano alcune cosette, e poi perché sono contento che la pallacanestro sia nelle sue mani. Io arrivai a Milano proprio in quegli anni, nel 70, mi sembra che vinse lo scudetto Varese, anzi lo scudetto della Coppa Italia e pure la Coppa dei Campioni, Varese di Nicolic e di tutti i ragazzi che ricordiamo. Che devo aggiungere senza commuovermi? Sì, dai giganti del basket risulta che allora frequentavo la parrocchia. Pierluigi Pardo, cosa auguri a Umberto Gandini al basket? Innanzitutto mi sono venuti in mente tanti ricordi della generazione immediatamente successiva, ma insomma io ero un bambino che amava la pallacanestro e comprava Super Basket a 8 anni, 9 anni, mi rendo conto che possa sembrare un po' ridicola, ma è la verità. Mi ricordo partite del 1982-83, mi ricordo ovviamente il Banco Roma vincere 79-73 la Coppa dei Campioni e tutti quegli anni lì, il grande basket jugoslavo che ci arrivava da Capodistria, quindi queste pronunce slave, questi giocatori mitici, ovviamente lo spettacolo del nostro basket. Il basket ha avuto una forza incredibile perché ha saldato metropoli e continua a farlo, salda metropoli e province, cioè, e da questo punto di vista è veramente uno sport democratico, perché tu a sera puoi vincere lo scudetto, qualche anno fa succedeva, adesso no, ma insomma puoi ambire a vincere lo scudetto in piazze di città relativamente piccole. E quindi da questo punto di vista, insomma, quello che ha fatto Pesaro, quello che ha fatto Cantù, Varese, Treviso, Caserta, vabbè, potremmo andare avanti per ore, da nord a sud, è veramente qualcosa di straordinario. E poi quando il basket invece riesce a fare breccia nelle metropoli con grandi progetti, e qui viene in mente ovviamente la grande iperbole, la grande suggestione, la vertigine del Messaggero di quei primi anni 90. Insomma, vabbè, i ricordi sono tantissimi, che ti ho in bocca al lupo, auguri. Per me, lo sai come la penso, è il gioco più bello che c'è, se parliamo del gioco, cioè del piacere del gioco, è ancora più bello del calcio. Poi il calcio chiaramente ha intorno una, appunto, parlavamo prima dei tifosi, no? Ha una cornice, ha una sacralità, ha una bellezza quasi religiosa che lo rende una, veramente una religione universale, però il basket è meraviglioso, lunga vita. Senti, amico mio, ti saluto e andiamo avanti a torchiare Umberto Gandini, perché vogliamo capire come sarà il basket che verrà molto presto, da settembre in poi. Allora, Umberto, è festa ma è già futuro, specie dopo che l'Eurolega ieri ha decretato la fine ufficiale della stagione. Ci sono per te e per voi tanti problemi da risolvere in estate. Che basket vedremo e qual è il basket che immagini? È caduto Umberto Gandini, giro la domanda a Marino Bartoletti chiedendogli di fare visionario. È un anno facile per diventare presidente di Lega, quindi ci sono dei contrattempi anche telefonici. È difficile, sai, disegnare uno scenario adesso, Carlo, perché in questo momento l'orizzonte ci sfugge completamente, non soltanto per quanto riguarda il basket, non soltanto per quanto riguarda lo sport, ma ovviamente anche per quanto riguarda la vita, che pure sembra che ci torni leggermente a sorridere. Guarda, io parto da una valutazione critica che poi vorrei che ascoltasse anche Umberto. C'è già, ti sta ascoltando. Ci sono stati momenti in cui il basket è stato perfettamente conscio della sua crescita, momenti in cui è andato molto al di là delle sue potenzialità, perdendo di vista un pochino la realtà, poi momenti di recessione, di ritorno, di ricrescita, eccetera, eccetera. È chiaro che, come diceva Fabrizio, dai diamanti non nasce niente e non proseguo. Però in quest'anno di difficoltà, secondo me, il basket dovrebbe fare delle riflessioni importanti per capire qual è la sua vera dimensione, qual è la sua vera collocazione, non certamente verso il ribasso, certamente verso il rialzo, però capire esattamente quali sono le sue dimensioni, le sue proporzioni e le sue ambizioni. Faccio un appello ad Umberto, guarda, se io mi sono, non dico distaccato dal basket perché continuo ad amarlo, e perché a un certo punto ho fatto molta fatica a identificarmi in qualcosa e in qualcuno, c'è stato un tempo in cui noi potevamo recitare il 10 o al massimo il 12 base delle formazioni. Da un po' di tempo a questa parte questo è diventato molto complicato e compiango i miei giovani colleghi adolescenti che effettivamente non hanno il gusto di identificarsi, ripeto, in assoluto con una maglia, con una formazione, con degli uomini. Umberto, rieccoci. No, bene, Marino, intanto è un grande piacere sentirti e grazie per gli auguri e ovviamente ne abbiamo fatte di cose insieme per un certo periodo della nostra carriera. Il fatto che ci accomuni il basket, io sono cresciuto quegli anni. I miei ricordi vanno appunto ai primi anni 70, alla fondazione della Lega, a quelle grandi squadre di allora. Venendo invece all'attualità, la cosa più importante da ricordare è che senza un passato, senza conoscere il passato e perché le cose sono successe, è difficile gestire il futuro, ma soprattutto gestire il presente, ma soprattutto pianificare il futuro. Noi veniamo da una stagione che è stata purtroppo interrotta dalla pandemia ed era una stagione che stava dimostrando numeri in crescita, tanta gente nei palasport, competitività, abbiamo fatto una Final Eight a Pesaro bellissima, vinta poi da Venezia, quindi c'erano tutti gli ingredienti per un crescendo di stagione. Siamo fermati, abbiamo dovuto fermarci, cercato di mettere in sicurezza quello che potevamo del movimento e adesso ci troviamo nella prima fase di pianificazione. La prima pianificazione è il 2021, abbiamo dato delle date, abbiamo dato formati, abbiamo dato indicazioni che siamo pronti a ripartire e da qui a fine luglio avremo un quadro perfetto della nostra situazione, del quale campionato andremo ad avere nel 2021, che gioco forza diventa un campionato di pianificazione, nel corso del quale dobbiamo proprio fare quello che avete detto, cioè capire chi siamo e dove vogliamo andare e qual è la dimensione che ci vogliamo dare. Io ho solo un dogma adesso che continuo a ripetere e che ho preso a prestito da quanto vissuto nel calcio nel corso dei tanti anni di esperienza, è che il campionato italiano deve tornare ad essere un campionato di destinazione per i grandi giocatori, per i grandi atleti e non essere un campionato di passaggio attraverso il quale si fa il salto verso lidi migliori. È evidente che sarà difficile, non penso che sia lo scopo nostro, trattenere i nostri talenti che invece ambiscono all'NBA, vedo che il trend continua, che ci sono giocatori che vanno a crescere nel sistema NCAA, per poi adesso tornare, vedo Moretti che torna a Milano e che quindi è un segnale che il campionato italiano può essere competitivo a quel livello, visto c'è anche l'Eurolega, ma c'è l'Eurocup, ci sono la Champions League, ci sono altre competizioni internazionali, ma la cosa importante è che si ambisca a giocare in Italia, non solo perché è un bel paese, non solo perché siamo magari meglio organizzati e si sta bene, ma anche perché la qualità del basket è in crescita, è buona ed è bello giocare qua piuttosto che da altre parti. Quella del campionato di destinazione mi piace tantissimo, spero solo che sarà possibile. Ci fermiamo un secondo per il traffico, poi continuiamo a parlare di presente ma soprattutto del futuro del basket, che passa anche o forse soprattutto attraverso lo sviluppo del discorso con le televisioni. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Marino, credo che ovviamente sposiamo tutti quello che ha detto il presidente della cinquantenaria Lega Basket, cioè speriamo che il basket italiano torni ad essere una destinazione e non una tappa di passaggio, però pensando al momento attuale vengono poi brividi perché non si sa bene quale scenario troveremo. Pronto Marino? No, non c'è. Lo recuperiamo. Intanto c'è Umberto Gandini con cui vado al passaggio successivo, cioè quello, il nodo delle TV. Presidente, quale rapporto immagini con la televisione per il basket che verrà? Ma indubbiamente molto dipende dal prodotto che noi abbiamo e quando parlo di prodotto evidentemente parlo dei 40 minuti in cui giochiamo in campo, ma parlo anche di tutto il contorno, parlo di tutto l'indotto, la storia, lo storytelling di quello che è la pallacanestro in Italia. Marino, ha segnalato un problema, una situazione molto diversa dal passato, quando c'era un roster molto più stabile, dove cambiavano solo due americani, dove c'era l'americano di coppa, dove ci si riconosceva. Oggi siamo in un mondo diverso, purtroppo o per fortuna, c'è stata la Bosman, sono cambiati tantissimo i rapporti di forza, sono cambiate le regole e di conseguenza il basket è stato uno dei primi ad adattarsi a questo e avendo quindi un bacino straordinario di talento che sono gli Stati Uniti, è diventato un po' gioco forza avere un continuo ricambio di giocatori. Poi in realtà abbiamo giocatori che stanno in Italia 3, 4, 5 anni, che sono diventati quasi più italiani dei loro compagni italiani, eccetera. Però forse mancano i grandi testimonial, i grandi ambasciatori di questo gioco che possano essere identificati e identificabili con la squadra in cui giocano. E qui magari è un lavoro che insieme alle società dovremo come Lega fare. Ma poi non posso dimenticare che tutto questo deve passare attraverso un aumento dei ricavi. Per avere più ricavi, evidentemente le televisioni, i media in generale diventano fondamentali, diventano i veri protagonisti, ma sta a noi dargli un prodotto che loro vogliono avere. Sì. Ed è un prodotto che non può prescindere dalle infrastrutture, non può prescindere da come sono le cornici nelle quali giochiamo, quindi i palazzetti, quindi la propria illuminazione e tutto quello per farlo ritornare ad essere quello che comunque è una parte della storia dello sport italiano. Sì, col signore qui presente che è tornato, Marino Bartoletti, quando era direttore di Rai Sport, si aprì il Rai 2 alla pallacanestro in diretta, correggimi se sbaglio, Marino. Posso negarlo, così come quando diventai direttore del Guerin Sportivo ripristinai immediatamente il Guerin Basket, che era il motivo per cui mi ero trasferito a Milano. Ma tu ti ricordi bene come c'era quella dicotomia, no, tra la necessità di andare sulle TV generaliste oppure il fatto magari di prendere più quattrini da altri canali televisivi? Vorrei capire se questa dicotomia si ripropone. Allora, come sai, non c'era dicotomia perché c'era il monopolio, non c'erano alternative. Però io feci in modo che l'alternativa Rai fosse la più preziosa possibile, anche se, guarda, ti ricordo un aneddoto, lo ricordo ad Umberto, per far capire quanto a volte l'imprenditorialità della pallacanestro sia misurata, diciamo pure, con l'artigianalità, forse anche con la miopia. Io, ripeto, feci qualcosa di storico, e lo posso dire anche togliendoci le virgolette e negandomi alla modestia. Però quando misi, ricordate che era un rito la partita delle 7 di sera registrata del campionato di calcio, perché era la prima cosa calcistica che si vedeva, ripeto, anche se registrata. E io, presidente della Lega Angelo Rovati, che ricordo veramente con tanto affetto, come giocatore e come dirigente, dissi: dai, proviamo con la pallacanestro, ci mettiamo la partita di basket in diretta, quella della domenica ovviamente la più importante. La cosa naturalmente funzionò, ci fu purtroppo chi nel mondo della pallacanestro disse: vabbè, se però voi date la partita di basket principale in diretta, poi gli spettatori non vanno a vedere le nostre partite distribuite in Italia. Ecco, io spero che quel momento, diciamo pur di dualismo, diciamo pur di miopia, sia stato superato. Guarda, in questo momento c'è il calcio, e lo cito perché chiaramente il movimento trainante, lo abbiamo detto, lo ripeteremo, però può darsi che stia cedendo delle quote mercato, ed è questo un momento molto utile, molto fertile per la pallacanestro, e come il calcio deve ritrovare un'unità di intenti e remare tutte le componenti nella stessa direzione, lo debbono fare anche gli amici della pallacanestro, capire quale sia la direzione, capire quale sia, come dire, la direzione della bussola puntata più intelligente e positiva possibile, ma soprattutto la più positiva per quanto riguarda la crescita comune del movimento, che in questo momento ha una grande opportunità che nasce dal disagio, anche da qualcos'altro che la pandemia ci ha procurato. Umberto? No, sono d'accordo con Marino, concordo bene. La miopia la riconosco in quello che hai detto, ed è assolutamente folle una cosa di questo tipo. Noi abbiamo un dibattito adesso, come dicevo, arriviamo da una stagione che abbiamo chiuso all'inizio di aprile, quindi ci sono tutte delle situazioni da definire, sia con i broadcaster che abbiamo oggi sotto contratto, e poi pianificare il prossimo bando. C'è da un lato la storicità della visibilità che dà il chiaro, che danno le reti generaliste a una pallacanestro che, come abbiamo detto, storicamente è stata la prima a nascere negli sport con la sponsorizzazione quasi più importante del nome, anzi più importante del nome del club e della città stessa. E quindi capisco questo, direi quasi cromosoma che esiste nel basket italiano. Dall'altra parte, lo sport è andato piano piano verso solo ed esclusivamente un ambiente pay nel quale i ritorni sono un po' più diretti rispetto alla televisione generalista. Bisogna trovare anche qui il giusto mezzo, capire se effettivamente il pubblico della televisione generalista oggi può essere il pubblico di riferimento del basket, o se invece il pubblico di riferimento del basket è tutto sugli OTT, tutto sulle reti a pagamento o eventualmente sui social, e quindi andare a pensare a qualcosa di alternativo. Non posso dimenticarmi comunque che abbiamo estremamente bisogno di risorse e di conseguenza questo dovrebbe essere, purtroppo o per fortuna, la nostra stella polare che dovremmo seguire. Senti, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, lo stato di salute dei nostri club di Serie A, perché abbiamo letto di Roma, leggiamo di Pesaro e io sinceramente sono preoccupato. Ma sai, è una situazione che deriva principalmente, direi, dalle conseguenze del Covid-19 e da quello che stiamo vivendo adesso. È l'industria che sostiene lo sport italiano, sono le sponsorizzazioni che in particolare, o il mecenatismo che in particolare sostengono il basket, per limitarci a questo. E evidentemente quando un imprenditore ha un'azienda in difficoltà, che non fattura da 2 o 3 mesi, che ha dovuto chiudere, eccetera, eccetera, deve per forza di cose riguardare un po' le sue spese e potrebbe essere che le spese di sponsorizzazione ne vengano attaccate. E le situazioni sono tutte e tre diverse, ci metterei anche Cremona che ultimamente ha segnalato un po' di difficoltà, ma più che altro per avere un aiuto dal tessuto storico locale di Cremona. Pesaro ha fatto miracoli per anni, e comunque con budget ridotti, ha probabilmente anche bisogno di ritrovare entusiasmo, di riportare un po' la chiesa al centro del villaggio e di essere quindi un punto di riferimento della pallacanestro italiana come è stato negli anni passati e come mi auguro che continui ad essere anche se in un momento di difficoltà. Roma per 20 anni, Claudio Totti ha fatto tantissimo, la Virtus Roma è stata un importantissimo interprete del nostro basket e non posso che augurarmi che continuerà ad esserlo. Anche qua confido che nel tessuto imprenditoriale della capitale si trovino quelle risorse che permettano alla Virtus Roma di continuare. Grazie direttore, ti lascio salutare da Marino. Grande. Ripeto che la mia fiducia sul nuovo presidente di Lega è assolutamente ben riposta. Non so se i primi a sponsorizzare qualcosa e qualcuno in Italia siano stati gli amici del ciclismo o della pallacanestro, ma questo conta abbastanza poco. Io mi auguro, guarda Umberto, che dovunque sia la destinazione mediatica, l'importante è che chi ha la titolarità del racconto della pallacanestro ne sia orgoglioso, perché esatto, avere le partite di pallacanestro poi raccontarle in maniera sciatta non vale assolutamente la pena. Chiudo dicendo anche che forse anche il linguaggio andrebbe recuperato, perché noi abbiamo dei narratori di pallacanestro che parlano troppo di alley hop e di pick and roll. Tieni presente che il successo di un movimento sportivo e non sta tanto nel riconquistare i propri tifosi che ci sono già, ma affondare in un bacino diverso e terzo e alternativo. E allora anche un linguaggio di narrazione che sia più vicino alla gente che ha diritto di innamorarsi del basket, anche se non sa parlare americano. Grazie, sono signori. D'accordissimo, Marino, grazie. Grazie, signori, auguri basket. Grazie Umberto Marino, Gandini, Marino Martoletti, che spero ritroveremo nel prossimo Bar Tour martedì. Forse. Come forse? Devo chiamare subito Turrini. Grazie Anita Panizza, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, Valeria Bernardi, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.